Hey! leva del fascino. Oh, grido Muriella! Che dirò Thank you. partirò. Ma dall'on di là, perché non vederà la fratezza, l'abbandonerà. Ma mai quel che avverrà, puoi darti a miglior vita. Non vorrei fare il lante, non menti mil brilo, mentre chi ti mai colline le poppe. Parla mia. Thank you.